Lettera inviata a Roma dalla città sassone di Wittenberg, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 27 ottobre 1521. All'illustrissimo e reverendissimo signore e padrone onorandissimo Giovanni Pietro Carafa in Roma. Illustrissimo e reverendissimo signore e padrone mio onorandissimo, scrivo a vostra signoria per informarla che non v'è ormai dubbio sulla responsabilità del principe Federico nel sequestro di Lutero. Qui a Wittenberg le voci riferiscono di una prigionia volontaria del monaco in uno dei castelli dell'elettore, nel nord della Turingia. Se non bastassero le voci, che di giorno in giorno si aggiungono a confermare questa verità, sarebbe sufficiente a fugare ogni residuo infingimento leggere nel volto sereno del dottissimo ed effeminato Melantone, oppure nello scorrere quotidiano senza angoscia delle attività di insegnamento e formazione dei discepoli, o ancora di più nella frenesia del rettore Carlo Stadio. Lutero dunque non è stato rapito, bensì messo in salvo dal suo protettore. Ma vengo subito a rispondere al quesito che vostra signoria poneva nella sua ultima missiva. Eppure è vero che ora l'attenzione e le forze dell'imperatore sono rivolte alla guerra contro la Francia e per il partito dei seguaci di Lutero potrebbe essere il momento propizio per palesarsi. Io però non credo che ciò avverrà in tempo breve. Se questi occhi sono buoni a qualcosa, posso affermare che il principe Federico e i suoi alleati temporeggeranno. Egli non ha alcun interesse a fomentare la rivolta contro il Papa, perché sa che potrebbe perderne il controllo e che potrebbe essere sconfitto. L'imperatore, infatti, accorrerebbe in difesa della cattolicità ed egli è ancora troppo forte per essere sfidato in campo aperto. Ma vi è anche un altro fondamento alla prudenza dell'elettore di Sassonia. La piccola nobiltà senza terra si è raccolta intorno a due nobili decaduti, simpatizzanti di Lutero, certi Hutten e Sickingen, i quali, nel prossimo anno, potrebbero tentare un'insurrezione. Credo quindi che i principi, Federico in testa a tutti, non vorranno lasciare aperto un varco a questi tumultuosi subalterni e che saranno uniti nell'abbatterli per mantenere essi solo il controllo di ogni riforma. Ma ancora un'altra ragione spinge l'elettore a prendere tempo. Ciò di cui infatti non ho ancora riferito alla signoria vostra è l'umore popolare che si coglie nell'aria da qualche mese a questa parte. In particolare, gli avvenimenti di Wittenberg, nell'assenza di Lutero, incalzano da vicino l'elettore. Il rettore dell'università, Andrea Carlo Stadio, guida infatti una riforma che trova largo seguito tra la popolazione. Egli ha abolito i voti monastici e il celibato per gli uomini di chiesa. La confessione auricolare, il canone della messa e le immagini sacre hanno subito la stessa sorte. Ha scatenato la ferocia popolare contro le immagini dei santi e si sono avuti episodi di violenza che hanno portato alla deturpazione di chiese e cappelle. Egli stesso si è prontamente sposato con una giovane donna di appena 15 anni, veste di sacco e predica in tedesco per le strade, parlando di umiltà e abolizione di tutti i privilegi ecclesiastici. Non si fa scrupolo di sostenere che le scritture devono essere lasciate al popolo, libero di appropriarsene e di interpretarle come meglio crede. Neanche Lutero avrebbe mai osato tanto. Riguardo all'amministrazione civica, poi, Carlo Stadio ha instaurato un consiglio municipale elettivo che regga la città al pari del principe, e questo spaventa non poco Federico. Ciò che infatti egli pensava di divolgere a proprio favore rischia di rivolgersi contro lui stesso. La riforma della Chiesa e l'indipendenza da Roma potrebbero mutarsi in riforma dell'autorità e indipendenza dai principi. Per questo motivo credo che l'elettore non tarderà a far uscire Lutero dalla tana in cui lo tiene nascosto, affinché scacci questo Carlo Stadio. Posso assicurare inoltre a vostra signoria che qualora Lutero dovesse tornare a Wittenberg, Carlo Stadio sarebbe costretto ad andarsene. Egli infatti non è in grado di sostenere lo scontro con il profeta della riforma tedesca. Resta sempre un piccolo rettore di università, mentre, dopo Worms, Lutero è ormai per tutti i tedeschi l'Ercole germanico. Ebbene, mio signore, io sono certo che questo Ercole abbatterà la sua clava su Carlo Stadio e su chiunque minacci di oscurare la sua fama se soltanto l'elettore glielo consentirà. Federico, dal canto suo, sa bene che soltanto Lutero è in grado di guidare la riforma nella direzione che gli sia più utile. Essi hanno bisogno l'uno dell'altro, come il nocchiero e il vogatore, per governare una nave. Sono certo che Lutero non tarderà molto a tornare a Wittenberg e pulirà il campo da tutti gli usurpatori del suo scranno. Dunque, per tutte queste ragioni, il principe Federico e i suoi alleati non hanno ancora affrontato apertamente la Chiesa e l'imperatore. Ora, Se mai fosse concesso al servo il dare consigli al proprio signore, sono sicuro che egli parlerebbe così. Quello che sembra, mio signore, è che per colpire a un tempo l'elettore e tutti i principi che intendono ribellarsi all'autorità della Chiesa romana, occorra colpire proprio l'Ercole germanico, di cui costoro si fanno scudo. Il popolo, i villici e i contadini sono scontenti e tumultuosi, vorrebbero riforme ben più ardite di quelle che il principe Federico e forse lo stesso Lutero sono disposti a concedere. La verità è che il portale che Lutero ha aperto adesso lo si vorrebbe ben chiuso. Ora, questo Carlo Stadio non vale molto, avrà vita breve, ma il fatto che tante persone qui a Wittenberg l'abbiano seguito è un segno chiaro del sentimento che anima il popolo. Se dunque, dalle onde di questo burrascoso oceano tedesco, emergesse un altro Lutero, più diavolo del frate del diavolo, qualcuno che ne offuscasse la fama e desse voce alla richiesta del volgo, qualcuno che mettesse a ferro e fuoco la Germania, con le sue parole, costringendo Federico e tutti i principi alla guerra, costringendoli a chiedere l'appoggio dell'imperatore e di Roma per sedare la ribellione. Qualcuno, mio signore, che impugnasse il martello e colpisse la Germania con tale forza da farla tremare dalle Alpi al mare nordico. Se un uomo di tal genere esistesse da qualche parte, lo si dovrebbe tenere più prezioso dell'oro, poiché sarebbe l'arma più potente contro Federico di Sassonia e Martin Lutero. Se Dio, nella sua infinita provvidenza, ci inviasse un profeta come questo, non sarebbe che per ricordarci che le sue vie sono infinite, come infinita è la sua gloria, per la quale questi umili occhi si adoperano e continueranno a servire sempre la Signoria vostra, alla cui bontà mi rimetto baciando le mani. Di Wittenberg, al 27 ottobre 1521, il fedele osservatore di vostra Signoria, Q.